mio giorno. Di sera andata, di sera intorno, 20 chilometri al giorno. Sentirmi dire che non ne voglio uscire. Avevo l'estate pulita e la camicia a testa di bucato. Io vedevo le dita, ma tu per l'altro sprecare. Cazzo. 20 chilometri al giorno, beva andata lunga del tonno. 20 chilometri al giorno. Non pensare a te. Gatto, mi stai fuori di prato, ma